Prossimo tuo, rubrica in collaborazione con la Caritas. Tema ricorrente all'interno della rubrica realizzata in collaborazione con la Caritas è quello dei profughi. Ben ritrovati ancora da Mirko Cavallin. Proprio sul tema dell'accoglienza nel territorio padovano si è discusso già nel corso di Openfield, ne ha parlato la stessa Caritas padovana nel corso dell'assemblea delle Caritas parrocchiali sabato scorso, presentando anche un opuscolo e diverse esperienze possibili di accoglienza. Un'altra strada che si apre, quella del protocollo appena sottoscritto nei giorni scorsi tra la stessa Caritas di Padova, la prefettura, quindi la rappresentanza territoriale del governo, e il mondo delle cooperative. Al microfono di Paola Sartore di Telechiara sentiamo il direttore di Caritas, Don Luca Facco. Don Luca, finalmente arriviamo ad una firma importante per dare anche all'accoglienza un calore più familiare, possiamo dire così? Sì, c'è questa firma di questo protocollo tra la prefettura, le cooperative sociali e la Caritas per un'accoglienza ancora più micro, ancora più diffusa, in particolare presso le famiglie. Crediamo che sia il modo migliore proprio per valorizzare la grande risorsa dell'essere famiglia, la casa, l'ospitalità, la vita ordinaria. Crediamo che sia proprio il modo migliore per integrare e dare un'opportunità ai profughi, ma anche un'occasione per le famiglie per mettere a disposizione i loro talenti e le loro capacità. Le famiglie, in questo senso, anche per il vostro osservatorio, secondo te saranno disponibili a questa forma? Noi crediamo di sì, crediamo che ci sia una grande sensibilità nel nostro tessuto veneto, padovano, famiglie che hanno fatto esperienze in missione, famiglie che credono nell'affido, famiglie che lavorano, che operano attraverso i gruppi familiari. Noi crediamo molto nella possibilità per le famiglie inserite in un tessuto comunitario, in modo da offrire non solo l'accoglienza della propria casa, ma offrire una rete di relazioni. Veniamo invece al report della Caritas, una occasione per raccontare soprattutto che cosa, quali sono i punti da sottolineare. Sì, noi abbiamo ricevuto un forte mandato della Chiesa diocesana di lavorare sul tema della formazione e dell'informazione alle comunità. Abbiamo preparato proprio un manuale, un vademecum, proprio per le parrocchie, per l'accoglienza. Ora abbiamo predisposto proprio un report in modo da dare numeri, un'informazione un po' più corretta e precisa sui numeri dell'accoglienza, sulla situazione dell'accoglienza a Padova e sul ruolo e della sensibilità e le capacità che può mettere a disposizione una parrocchia. Per cui metteremo a disposizione proprio questo report alle comunità cristiane, e anche abbiamo predisposto proprio in questi giorni anche un video documentario in modo da raccontare proprio le esperienze di accoglienza. Quanto è importante comunicare anche con dati, con immagini, con tutto ciò che racconta da dentro questa particolare fetta di umanità? Sì, girando per le parrocchie in questi mesi, perché molti sono stati gli inviti a raccontare, a spiegare, quello che emerge alla fine di ogni incontro è proprio questo: ma noi non conoscevamo, non sapevamo, non ci rendevamo conto. Per cui io credo che sia veramente importante questo primissimo lavoro di una corretta e sana informazione alle persone, perché più uno conosce, più poi è libero anche di scegliere, di valutare e di prendere le proprie decisioni. Molta soddisfazione su questo protocollo è stata espressa dal rappresentante del governo per la provincia di Padova, il prefetto Patrizia Impresa. Questo è un momento per me di grande soddisfazione, perché intanto interrompe un percorso lungo fatto in completa solitudine di scelte e di risoluzione del problema accoglienza. E poi diciamo che dà il segno che la stessa accoglienza può avere anche una sua evoluzione importante, perché intanto è diventa una sorta di accoglienza partecipata, quindi di prossimità, di vicinanza, corale, e soprattutto apre la possibilità che dall'accoglienza si possa partire per percorsi integrativi, per percorsi che possono realmente dare delle soluzioni di vita a queste persone. Ulteriori rassicurazioni sull'efficacia di questo modello di microaccoglienza in famiglia arriva dal presidente di Confcooperative Veneto, Ugo Campagnaro. Si possono controllare questi fenomeni portandoli vicino alla gente e dividendoli praticamente, se fosse possibile, all'interno delle nostre famiglie, un controllo più puntuale, non i grandi numeri, non a grande massa, una scelta puntuale da parte delle associazioni di categoria, una scelta da parte della Caritas, e quindi se si vuole un'accoglienza anche cristiana più calda, ma anche un controllo più preciso e più puntuale. Del tema profughi continueremo a parlare anche in altri spazi di questa rubrica. La settimana prossima invece ci dedicheremo alle 10.000 ore di volontariato. Avete ascoltato Prossimo Tuo, rubrica in collaborazione con la Caritas.